punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità. Sono stata trattata bene, sono stata trattata bene, adesso sto bene, sono in forze, quindi insomma, adesso finalmente è finito. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Apriamo con la buona notizia della settimana. Mercoledì è stata liberata Rossella Urru, la cooperante italiana che era stata rapita da un gruppo islamico nella notte fra il 23 e il 24 ottobre del 2011 in un campo profughi in Algeria. Per il rilascio di Rossella e di due cooperanti spagnoli sarebbe stato pagato un riscatto di 15 milioni di euro. Ho avuto paura, ha raccontato Rossella al rientro in Italia. E risentiamo il servizio andato in onda il giorno dopo la liberazione. A Samugheo, il paese di origine di Rossella Urru, la festa è andata avanti fino a notte inoltrata. Dopo voci e smentite, a dare la conferma della liberazione a tutto il paese che in questi lunghi mesi si è stretto intorno alla famiglia, è stato il parroco Don Alessandro Floris. Ho detto posso suonare le campane a festa. Il primo gesto è stato quello di suonare le campane, segno appunto liberatorio, quindi la comunità ha capito che la notizia era appunto vera. E ciò che ci ha tenuto unito come paese è stato soprattutto il momento della preghiera che io tenevo ogni settimana appunto per 9 mesi. Nella cittadina a pochi chilometri da Oristano si è ballato in piazza per molte ore. I clacson non hanno smesso di suonare. Mario Sulis è lo zio di Rossella. Un carosello di macchine, di moto, di biciclette, come quando abbiamo vinto il mondiale, insomma. Tutto il paese era mobilitato, anche gente di fuori. Ora, sulla facciata del comune, lo striscione che dal 23 ottobre chiedeva la liberazione della cooperante è stato sostituito da uno nuovo che annuncia Rossella liberata. Lo zio Mario non esclude che la trentenne innamorata dell'Africa e del suo lavoro possa in futuro farvi ritorno. Questo lo deciderà solo lei. Dal modo che la conosco io potrebbe anche ritornare lì. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In effetti Rossella Urru, proprio al rientro in Italia, ha già detto che vorrebbe rientrare in Africa. Sulla vicenda della Urru, in particolare sulla questione del riscatto, a 24 mattina è intervenuto Magdi Cristiano Allam al microfono di Alessandro Milan. Il riscatto è comunque sbagliato perché è un sostegno al terrorismo ed è un incentivo a nuovi sequestri di persona. È un errore quello di pagare i riscatti e già in passato è stato detto che proprio per prevenire queste situazioni difficilissime in cui da un lato ci troviamo di fronte ad un caso umano che merita tutta la nostra attenzione, dall'altro ci troviamo però con l'evidenza del nostro sostegno al terrorismo, seppur involontariamente. Di qui l'appello a far sì che d'ora in poi mai più italiani si rechino in aree a rischio, perché oramai ci prendono per dei buoni pagatori e gli italiani saranno sempre più oggetto del sequestro da parte dei terroristi e della criminalità organizzata. Però che vorrebbe dire questo Allam, estendendolo questo discorso? La stessa Rossella Urru ha detto: mi auguro e spero di poter tornare in Algeria. Vorrebbe dire, cioè, non era una turista, era una cooperante. La cooperazione internazionale è una cosa importante, sostenuta a livello mondiale. Che dovremmo fare? Sospendere tutti i programmi di cooperazione internazionale nelle aree a rischio? È una cosa importante ed è un'azione meritevole. Nel momento in cui noi siamo consapevoli siamo facile bersaglio, siamo un bersaglio appetibile, perché ci considerano appunto uno Stato che facilmente paga per ottenere in cambio la liberazione dei propri connazionali, noi non possiamo prescindere da questa realtà, perché involontariamente, inconsciamente, noi diventiamo conniventi con questo terrorismo. Oltretutto siamo consapevoli che la Rossella Urru era detenuta in un'area nel nord del Mali che è stata autoproclamata Stato indipendente da parte di terroristi islamici legati ad Al-Qaeda. Ma pare che ci sia il rischio che sia il nuovo Afghanistan. Però le ripeto, quindi lei sospenderebbe tutti i programmi di cooperazione, per esempio in quella zona, cioè ritirare tutti i nostri cooperanti? Lei lo farebbe? Il Ministero degli Esteri. esteri, il Ministero degli Esteri ha predisposto un servizio in cui chiarisce quali sono le aree in cui anche da un punto di vista del turismo è bene che gli italiani non vadano. Dobbiamo, come dire, prendere atto che questa realtà si applica anche a tutti gli italiani a prescindere dalla loro attività, anche la cooperazione. Non distinguono tra il turista e il cooperante. Certo, certo. Loro individuano un italiano, sanno che lo Stato italiano è un buon pagatore, lo sequestrano e come dire, attendono tranquillamente anche 9 mesi nella certezza che prima o dopo lo Stato italiano pagherà. E veniamo alla trattativa Stato-mafia. Le polemiche hanno infiammato la settimana in cui tra l'altro è stato celebrato il 20° anniversario dell'omicidio di Borsellino e della scorta. Le polemiche sono nate a inizio settimana quando il presidente della Repubblica Napolitano ha dato mandato all'Avvocatura dello Stato di sollevare davanti alla Consulta un conflitto di attribuzione contro la Procura di Palermo. In altre parole, il Quirinale contesta la Procura di aver leso prerogative del presidente per non aver distrutto alcune intercettazioni che lo riguardano. Un nuovo caso si è aperto attorno all'inchiesta sulla trattativa tra lo Stato e la mafia negli anni 90. Questa volta è intervenuto direttamente il Presidente della Repubblica per ottenere, attraverso la Corte Costituzionale, la distruzione delle conversazioni telefoniche che lo vedono protagonista. Giorgio Napolitano ha infatti dato mandato all'Avvocatura dello Stato di sollevare il conflitto di attribuzione che dovrà, in poche parole, stabilire l'esatto confine tra i due poteri dello Stato. Da una parte le prerogative del Presidente della Repubblica, dall'altra il diritto della magistratura di acquisire conversazioni a cui si arriva indirettamente mentre viene intercettato un indagato, come in questo caso in cui sotto controllo era il telefono dell'ex ministro Nicola Mancino sotto inchiesta per falsa testimonianza. Nel decreto firmato da Napolitano si legge che quelle intercettazioni non possono essere in alcun modo valutate, utilizzate e trascritte. I magistrati di Palermo difendono il proprio operato, come sottolinea il procuratore capo Francesco Messineo. Secondo il nostro punto di vista, le intercettazioni, se ritenute non rilevanti, sono tutte destinate alla distruzione. Poi i tempi, i modi, le norme alle quali attenersi sulla distruzione ovviamente possono essere oggetto di discussione e di argomentazione. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In quelle intercettazioni ci sono alcune conversazioni fra Napolitano e Nicola Mancino. Sentiamo il commento caustico di Marco Travaglio, intervenuto a 9 in punto al microfono di Oscar Giannino. Guardiamo il dito o guardiamo la luna? Il dito è: oddio, hanno intercettato il Presidente della Repubblica, che cosa fare quando finisce intercettato sul telefono di un altro il Presidente che è immune, o prima di lui il Capo del Governo o un parlamentare per intercettare i quali è necessario comunque l'autorizzazione del Parlamento. La luna è che un giorno un privato cittadino molto potente, molto amico di Napolitano, e cioè Nicola Mancino, si rivolge al Quirinale per ottenere favori indebiti, favori che se li chiedessimo noi comuni cittadini ci vedremmo staccare il telefono del centralino del Quirinale o non riceveremmo nemmeno risposta dal centralino del Quirinale. Figurarsi riuscire ad arrivare al consigliere giuridico di Napolitano e poi a Napolitano in persona per ottenere interventi, indebiti, interferenze su un'indagine giudiziaria in corso che non riguarda furti di bestiame o, che ne so, balconi abusivi, razzi abusivi, ma riguarda la trattativa fra lo Stato e la mafia. Questa è la luna. Che cosa succede quando Mancino, privato cittadino, chiama il Quirinale per ottenere che intervenga e interferisca in quell'indagine per indirizzarla su una via morbida e devitalizzarla, con pressioni del Quirinale, lettere ufficiali ma segrete del Quirinale al Procuratore Generale della Cassazione e convocazioni del Procuratore Nazionale Antimafia Grasso affinché in qualche modo striglino

la sua morte, non solo la sua scomparsa, non solo l'autobomba, ma anche le bugie, ma anche i dubbi e le polemiche, io credo che lo uccida un'altra volta. C'è bisogno di verità e c'è bisogno di giustizia. E in tutto questo elenco lei inserisce anche la decisione del Quirinale? Questo contrasto, quello che fa male. Ci deve essere chiarezza e non ci deve soprattutto essere il dubbio che ci sia qualcuno che voglia fermare questo percorso di verità. I contrasti significano che non c'è chiarezza. Lei ha detto: mi sento schiaffeggiata. Lo schiaffo è qualcosa che veramente ti offende. Io non so chi abbia ragione, se la procura o se la Presidenza della Repubblica. In un momento come quello del 20° anniversario non possiamo avere il dubbio che tra procura e Presidenza della Repubblica ci sia qualcuno che stia agendo scorrettamente. Noi pretendiamo soltanto che ci sia una vera ricerca della verità e che tutti insieme mirino a raggiungere questa verità. C'è un tentativo in qualche modo di fermare anche queste indagini della Procura di Palermo? Non voglio dire questo, so soltanto che per 20 anni questo percorso di verità sicuramente è stato ostacolato. Presidente Napolitano, nell'anniversario manderà alla famiglia un messaggio appunto del Quirinale. A lei che cosa farebbe piacere trovare? Lo pretendo davvero, che l'istituzione Presidenza della Repubblica lavori in maniera forte, costante e omogenea, vorrei dire, con la procura che sta andando avanti nella ricerca della verità, e se errori vengono commessi da parte della procura non ci sia uno scontro istituzionale, ma ci sia una collaborazione istituzionale perché tutto possa procedere nella maniera migliore. C'è stato un periodo, purtroppo, quello in cui si sono verificate le stragi, che parti dello Stato erano une contrapposte all'altra, e che non si ripeta questo stesso errore. Io sento un'aria, un'atmosfera, respiro una situazione che somiglia troppo a quella del 92. Punto e a capo. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di sport. Niente Olimpiadi purtroppo per il tennista spagnolo Nadal. Sognava di difendere l'oro olimpico sull'erba più prestigiosa al mondo, quella di Wimbledon, ma niente Londra 2012 per Rafael Nadal. Il tennista spagnolo non disputerà i giochi a causa del solito infortunio al ginocchio che lo tormenta ormai da tempo. Non sono nelle condizioni fisiche per poter partecipare alle Olimpiadi, fa sapere il mallorchino in un comunicato. È sicuramente il momento più triste della mia carriera. L'iberico numero 3 al mondo non potrà così difendere sull'erba di Wimbledon la medaglia d'oro conquistata a Pechino 2008. Del resto, proprio a Wimbledon a fine giugno, Rafa, campione sull'erba londinese già nel 2008 e nel 2010, era stato eliminato a sorpresa al secondo turno in 5 set dal ceco Rosol, numero 100 al mondo. La Spagna ora dovrà anche cambiare il suo portabandiera, dato che il Comitato Olimpico Iberico aveva scelto proprio il tennista 25enne per sfilare con la bandiera nella cerimonia di apertura dei giochi il 27 luglio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 ore. Ben ritrovati a Punti a Capo, stiamo esaminando, riesaminando alcuni dei fatti più importanti della settimana. Uno di questi è sicuramente il default della Regione Sicilia. Risentiamo il servizio che è andato in onda giovedì. La giornata campale per il futuro della Sicilia si chiude con una notizia positiva. Nessun rischio default per la regione, anzi sono in arrivo trasferimenti per 400 milioni di euro già programmati. La novità che arriva da ambienti governativi ha raffreddato le polemiche in una giornata di fuoco che ha visto il governatore uscente Raffaele Lombardo al contrattacco sul bilancio e sulle sue dimissioni sollecitate dal premier Mario Monti. Lombardo ne ha per tutti, se la prende con chi vorrebbe un commissario in regione per non votare a fine ottobre, sarebbe un colpo di Stato, sostiene. Poi attacca il killer raggio dei giornali contro la sua giunta e parla dei debiti della regione Sicilia. Abbiamo 3 agenzie di rating che esaminano i nostri conti. Moody's, Standard & Poor's e Fitch. Sapete chi è combinato come noi? Il Comune di Milano, il Comune di Siena, il Comune di Venezia. E per quanto riguarda le sue dimissioni... Non è vero che vogliono le mie dimissioni. Non vogliono le mie dimissioni. Vogliono che io resti in carica a qualunque titolo per rinviare le elezioni all'anno prossimo. In serata Lombardo ha poi smentito di aver attaccato il vicepresidente di Confindustria, Ivan Lobello. Ho parlato astrattamente di uno pseudo industriale, ha spiegato. Mentre se l'è presa con il collega della Lombardia, Roberto Formigoni. Abbiamo fatto un lavoro enorme, ha ricordato Lombardo, senza metterci in tasca un soldo e senza andare in ferie alle Antille sugli yacht dei nostri amici. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il citato Ivan Lobello, siciliano e vicepresidente di Confindustria, è intervenuto martedì in Focus Economia al microfono di Sebastiano Barisoni. È arrivata un'agenzia adesso in cui il Presidente del Consiglio Mario Monti chiede al Governatore Lombardo la conferma delle sue dimissioni a fine luglio, aggiungendo: il nostro intervento contro il fallimento sarà connesso alla situazione politica. Fa bene Monti a chiedere a Lombardo la conferma delle dimissioni per creare maggiore chiarezza? Beh, credo di sì. Io nell'intervista dell'altro ieri invitavo Monti, ma ovviamente il governo, non era una personalizzazione, a cercare di contribuire a fare chiarezza. Una situazione di difficoltà finanziaria finirebbe per coinvolgere l'intero paese in una fase complessa in cui lo spread è risalito, affrontiamo una recessione molto, molto profonda, quindi non possiamo permetterci nulla sotto questo profilo. Per questo credo che se la regione non intende fare chiarezza attraverso terzi indipendenti sulla situazione di bilancio, è bene che lo faccia il governo nazionale. Cioè, secondo lei, una volta che Lombardo confermerà al Presidente del Consiglio che se ne va a fine luglio, Monti dovrebbe il giorno dopo o l'ora dopo commissariare la regione? Le ripeto, dal punto di vista giuridico non è facilissimo, è una regione autonoma. Sui temi del commissariamento non mi pronuncio perché, diciamo così, è una vicenda molto, molto complessa e prima di un eventuale commissariamento bisognerà verificare concretamente la situazione finanziaria. Quello che farebbero tutti in un mondo normale, è prendere una grande società di revisione, mettergli in mano il bilancio regionale e il bilancio delle società controllate, perché non esiste un consolidato regionale. E ancora, a proposito di soldi pubblici, il governo ha deciso di tagliare le scorte e le auto blu. A 24 Mattino è intervenuto Maurizio Bianconi, deputato del PDL, vicevicario tesoriere del partito, al microfono di Alessandro Milan. Le solite sciocchezze che vengono tirate fuori, che paghi la Camera, che paghino i partiti o che paghi il Viminale, sempre soldi pubblici sono. Infatti. Quindi mi sembra un po' una bischerata questo rimpallarsi. Io le toglierei. Lei le toglierebbe? Sì, molte sì. No, ma diciamo una percentuale, cioè ma a lei, secondo me il 90% potrebbero stare a casa. Cioè il 90% di scorte potrebbero essere eliminate. Vede, non si tratta di risparmiare, questo deve essere molto chiaro, perché bene o male poi questi soldi vengono dati lo stesso, anche togliendo le scorte, perché le scorte non è che viene fatto da personale nuovo, è da personale che c'è. Senta, a proposito di debiti, visto che le casse, quanto ammontano i debiti del Popolo della Libertà? Adesso a niente, ma fra due mesi siamo senza soldi, perché hanno fatto una cosa che secondo me non ha proprio precedenti di buon senso. Cioè di dimezzare i soldi del budget nell'anno in corso. Ma scusi, il dimezzamento per dare i soldi ai terremotati? Io devo dare i soldi ai terremotati e contemporaneamente devo mandare a casa la metà di quelli che ho assunto in tutta Italia. Quindi do a 110 famiglie la buona notizia che per dare i soldi ai terremotati non mi portano più lo stipendio a casa. Cioè lei sta dicendo che dovrete licenziare qualcuno? Il 50% dei nostri dipendenti. 50%? Sì. Tra quanto? Entro l'anno. Entro l'anno il 50% dei dipendenti del Popolo, tanto il Popolo della Libertà si scioglie e torna Forza Italia. No, chi questa se ne è una sciocchezza, semmai cambierà nome. Beh sì, cambierà nome. Ma non so se sarà questo, basta che non cambi il progetto. Però mi scusi, lei sta mettendo quindi sul piano, perché sa, è un argomento molto sensibile quello dei soldi ai terremotati, che glieli dovevamo negare oppure non dovevamo prenderli da lì? Abbiamo dato i soldi ai terremotati, tant'è vero, li abbiamo anche votati e poi si manda a casa la gente. Che ne pensa? Noi tra poco parleremo di Nicole Minetti. Lei ha un pensiero compiuto su Nicole Minetti? Io ce l'ho sì il pensiero, che domani voteremo il Fiscal Compact, sì. Quindi rovineremo l'Italia per i prossimi 10 anni. Nessuno fiata, la stampa se ne frega totalmente, nessuno ha capito che per i prossimi 10 anni le famiglie italiane dovranno fugarsi in tasca per 50-60 miliardi l'anno, le famiglie italiane, e tutti sono incentrati su due Minetti. Cose, su Nicole Minetti e sul nome del PD. Nel PDL. E questo è, diciamo così, un segnale del momento. Ma lei ha un'idea? Cioè, se le interessa dire si dimetta, se non se ne frega niente? A me non frega. Non è certo la Minetti il capro o la capretta espiatoria. Punto e a capo. È tornato questa settimana il terrorismo contro obiettivi israeliani. Mercoledì è esploso un ordigno su un pullman di turisti israeliani in Bulgaria, in una località sul Mar Nero. 8 i morti, decine i feriti. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu punta il dito contro Teheran. Sentiamo l'analisi di Ugo Tramballi del Sole 24 Ore. Sono più di 60 anni che Israele combatte con il terrorismo, ma questa volta la questione non è fra l'autodifesa dello Stato ebraico e chi lo vuole colpire. Il confronto è più sottile e più generale. C'è di mezzo il Medio Oriente. In Siria l'acqua che fino a ieri arrivava alla cintola del regime di Bashar Assad, da ieri ha incominciato a salire rapidamente verso la gola, cioè al livello della disperazione. Potrebbe essere venuto il momento di usare la carta Israele, cioè ridare fiato all'ostilità che il mondo arabo nutre verso lo Stato ebraico. Fino ad ora la questione era rimasta fuori dalle primavere arabe. Dalla Tunisia alla Siria la gente ha altre priorità che cantare slogan contro il sionismo. Attraverso una provocazione a Israele, il regime siriano, i suoi alleati iraniani ed Hezbollah in Libano tentano di coinvolgere il nemico di sempre. Già ieri Bibi Netanyahu aveva indicato l'Iran come mandante dell'attacco in Bulgaria e promesso vendetta. Se cadrà nel tranello e reagirà, il Medio Oriente diventerà un posto ancora più instabile di quanto già non sia. Continuiamo a parlare di Medio Oriente. In Siria, sempre mercoledì, attacco al cuore dello Stato, decapitati i vertici della sicurezza del regime, mentre la diplomazia è lontana da un'intesa. L'analisi di Alberto Negri del Sole 24 Ore. Chi appoggia Assad, ha detto Barack Obama a Vladimir Putin, è dalla parte sbagliata della storia. La parte giusta è quasi sempre quella dei vincitori e le possibilità che Bashar Assad resti in sella si stanno seriamente assottigliando. La guerra civile, che stringe l'assedio a Damasco, ha decapitato i vertici della sicurezza con un attentato clamoroso al cuore del potere. Mentre l'ONU si prepara a votare l'ennesima risoluzione sulla Siria, ci si interroga su cosa potrebbe accadere nel dopo Assad. Se il regime crolla, è possibile che il mosaico siriano, composto da sette etnie diverse, sia destinato a implodere. Il sistema degli Assad ha un vizio d'origine, è un monopolio degli Alawiti, il 10% della popolazione, una setta perseguitata ed emarginata per secoli. La sconfitta per loro sarebbe una tragedia epocale. La guerra civile è destinata a continuare se non ci sarà un compromesso tra il vecchio regime e i vincitori. In questo caso, dalla parte sbagliata della storia, si troverà di nuovo tutto il popolo siriano. Punto e a capo. In questa settimana è stato celebrato l'anniversario della nascita dei blog. Era il 18 luglio 1997 quando lo sviluppatore statunitense Dave Weiner annunciava la nascita di Frontier, il primo strumento per tenere un diario. Insomma, l'archetipo delle piattaforme che sarebbero diventate famose come WordPress o Blogger. In uno dei primi siti creati con la piattaforma di Weiner, Robot Wisdom, era stato coniato il termine weblog. Poi fu Peter Merholz ad abbreviare. Ho deciso di pronunciare la parola weblog come weblog, scrisse, o blog per brevità. La rivoluzione? Consentire anche a chi non era professionista di fare informazione. Nella parola amatore è contenuto il concetto di amore, spiegava Weiner. Gli amatori non sono inferiori ai professionisti, hanno più passione e non sono vincolati dal fatto che col loro lavoro devono pagarsi le bollette. Vero o falso, la rivoluzione dei blog iniziò con lo scandalo Lewinsky, divenuto pubblico grazie a un post sul Drudge Report. Nel 2000 in Italia arrivò Dago Spia. 15 anni dopo la nascita di Frontier, oggi ci sono oltre 180 milioni di blog. Ora però il microblogging e i social network hanno cambiato nuovamente il panorama. Messaggi brevi e rilancio di contenuti altrui. E se il presente è fluido e in continuo mutamento, il futuro è sicuramente imprevedibile. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Consigli di bellezza, anche di questo si parla a Radio 24, sono consigli che arrivano dalla trasmissione Essere Benessere condotta da Nicoletta Carbone. Con Giulia Penazzi, farmacista, cosmetologa e autrice di Cosmetici Naturali Fai da Te, pubblicato da Tecniche Nuove Edizioni, sentiamo come lo zucchero può essere usato come trattamento naturale, ad esempio come uno scrub per il corpo. Per voi oggi ho pensato a uno scrub commestibile, lo possiamo chiamare perché si può anche ingerire volendo, con zucchero di canna, prendiamo quello più fine possibile, eventualmente se è grossolano lo possiamo un po' ridurre come granulometria con il mattarello, oppure per chi non ce l'ha con un bicchiere, e poi per 2 cucchiai più o meno di zucchero di canna possiamo aggiungere 1 cucchiaio di un olio vegetale. L'olio di semi di lino è molto indicato per la pelle perché è ricchissimo di acidi grassi omega 3, quindi è molto emolliente e molto nutriente e va benissimo. E poi sempre per questa quantità, quindi la proporzione è 2 cucchiai di zucchero di canna, 1 cucchiaio di olio vegetale, possiamo aggiungere 5 gocce di olio essenziale di arancio dolce, che ha un'azione molto idratante per la pelle e comunque molto addolcente e va benissimo. E poi passiamo questo scrub molto delicatamente sulla pelle asciutta, e la inumidiamo sotto la doccia leggermente in modo da non asportare ancora tutto lo zucchero e continuiamo a massaggiarla. Poi possiamo appunto procedere con il risciacquo. E quel velo di olio che rimane sulla pelle si emulsiona con l'acqua e crea proprio una crema idratante, quindi non è necessario poi dopo lavarsi, ma basta semplicemente asciugarsi e la pelle rimane idratata grazie proprio a questo olio vegetale che rimane sulla pelle. L'ultima parte della trasmissione è dedicata come sempre alla pagina degli spettacoli curata da Marta Cagnola. In questa settimana sono stati presentati molti nuovi appuntamenti per l'estate e per la prossima stagione televisiva. Presentate a Milano, per esempio, le novità Free e Pay di Mediaset. Il sogno, Alessandro Del Piero come commentatore. Ma per la prossima stagione sono comunque molte le novità. Ce ne parla il direttore di Sport Mediaset, Ettore Rognoni. Noi siamo una testata agenzia ormai da molti anni, la possibilità di fare eventi sia per la Free che per il Premium è sempre stata una nostra prerogativa, quindi seppur facendo dei prodotti molto differenziati utilizziamo un'organizzazione centralizzata che gestisce le due piattaforme. Alcune novità importanti per la prossima stagione, di cosa si tratta? Allora, fondamentale il ritorno in chiaro della Champions League su Italia 1, quindi torneremo in prima serata scegliendo la partita più importante del mercoledì con un pre-partita di 45 minuti e con un post-partita, compreso gli highlights delle altre partite, di circa un'ora. Con il martedì un programma di highlights che prenderà in considerazione le partite del martedì. E il giovedì ci sarà l'Europa League, che già avevamo anche l'anno scorso, ma sarà più arricchita da prepartita e postpartita. Per quanto riguarda invece i commentatori, è sempre un argomento appassionante. Chi ascolteremo nella prossima stagione? Allora, noi siamo in una fase di definizione. La nostra squadra l'anno scorso a livello di commentatori seconde voci è del tutto confermata. Dal punto di vista delle nuove voci stiamo ancora definendo alcune cose, quindi non sono in condizione di fare nuovi nomi. E dallo sport di Mediaset passiamo ad un altro canale, Super, canale 47 del digitale terrestre, 625 di Sky. Qui ci sarà la Super Ten Star Laura Esquivel. Sono felice di questo successo. In realtà per me fare questi progetti di questo genere, tipo ballo, canto, recitazione, mi fa stare felice. Più che successo, non è un lavoro per me, è davvero divertente, no? Lo faccio con tutto il mio cuore. Per le persone, per vedere le facce delle persone con un bel sorriso, no? È quello. Adesso ci sono bellissimi e nuovi progetti su Super, un nuovo canale molto divertente per i ragazzi, adolescenti. Io farò 2 programmi, uno che si chiama La Posta di Laura, in onda dal 16, e poi faccio anche il Giro Giro Tour, in onda dal 3 settembre, manca un po' di tempo. Faccio tutto, faccio ballo, canto, faccio la conduttrice, parlo l'italiano, allora un sacco di cose. È difficile, ma è la mia passione, dai. Ma la posta di Laura però è una cosa delicata. Sì, quello che mi è piaciuto a me sempre nelle interviste è poter consigliare, dare dei consigli sempre ai ragazzi che hanno

Questa era l'ultima notizia di Punto e a Capo. Abbiamo riascoltato insieme alcune delle notizie più importanti della settimana. Grazie per la regia, Roberto Scaltretti. Noi ci risentiamo sabato prossimo. Una buona giornata da Alessandra Tedesco.